Italia in controluce. Buon pomeriggio a tutti da Daniele Biacchesi, questa è la seconda puntata di Italia in controluce. Tra poco poi mi sentirete con il lungo speciale dalle 15 alle 17 dedicato però alle elezioni amministrative, ma anche alle presidenziali francesi, alle politiche in Grecia, alle amministrative in un land tedesco. Italia in controluce dunque tutti i giorni 6.30, 13.30. La puntata odierna la dedichiamo alla musica indipendente in Italia, al suo mercato, agli artisti e promoter, ai tour manager. Sentiamo insieme il reportage di Martina Zenton. Credo che i network di fondi commerciali siano tra i principali colpevoli del ritardo culturale e musicale del nostro paese, perché sono appiattiti su quelle 8-10 canzonette pop di successo. Questa è l'accusa mossa ai grandi network radiofonici da Giordano San Giorgi, patron del MEI, festival vetrina della scena musicale indipendente italiana dal 97. La sua non è una voce solitaria, da anni infatti addetti ai lavori, sindacati e i musicisti stessi chiedono che in Italia, come ad esempio in Francia, venga imposto l'obbligo di trasmettere una percentuale fissa di musica nazionale, tanto più emergente, all'interno dei palinsesti. Questo per valorizzare il patrimonio culturale, dicono, e per evitare un appiattimento sonoro tanto dannoso quanto poco proficuo. Ed è di questo ultimo punto che si parla quando oltre un centinaio di etichette indipendenti presenti oggi in Italia faticano a trarre profitto dai loro prodotti musicali. Una quantità notevole, tanto da aver acquisito negli anni il 25% del mercato musicale. San Giorgi, come si è arrivati a questo risultato? Ci sono state almeno tre fasi dalla metà degli anni 90 ad oggi. Diciamo che c'è stata la fase crescente del boom della discografia indipendente fino ai primi anni 2000. Dal 2000 al 2005 un assestamento in crescita esponenziale, portando la discografia indipendente sicuramente ad avere una quota di mercato pari a circa il 25%, mentre negli anni 80 in Italia erano di pochi punti percentuali. Una nuova fase che è stata quella dell'avvento dei siti, dei blog e di tutti gli strumenti di diffusione online per lo scambio peer-to-peer dei file MP3, mentre oggi siamo in una terza fase che supera i siti e arriva a quella dei social network, dove c'è una condivisione totale dei contenuti. Il meeting delle etichette indipendenti con l'avvento della digitalizzazione, onda cavalcata e non respinta dai piccoli produttori indipendenti, al contrario delle major, arriva ad avere due edizioni, la consueta a Faenza e il Medimex a Bari, dedicato proprio al web. Ma quando si parla di musica si parla anche di un motore economico, si parla di locali dove si fa musica, tra l'altro spesso disincentivati dal farlo, dall'eccessivo carico fiscale, si parla di eventi per la cui organizzazione si muove un consistente numero di soggetti e più in generale si parla di quella che viene definita economia culturale. E proprio a Marco Mazzoli, docente di economia all'Università Cattolica di Milano, oltre che musicista, chiediamo un'analisi del profilo economico della cultura. Un economista molto ortodosso come Baumol mostrava che la cultura ha un peso assolutamente decisivo nella crescita economica e nello sviluppo economico, non solo perché stimola in generale la creatività, ma anche perché ha un effetto moltiplicativo. Faccio un esempio: i musicisti, i compositori, gli artisti in generale vivono di musica, ma generano un indotto, ci sono i locali musicali dove viene prodotta questa musica, l'attività delle sale da concerto, l'attività dei luoghi dove si gestisce la musica può essere gestita in modo profittevole se viene presa seriamente, se viene promossa in modo serio. Anche il professor Mazzoli, come San Giorgi, prende come esempio di paese dove la cultura viene considerata uno strumento per la crescita economica proprio la Francia. In Francia il settore pubblico e anche le amministrazioni locali traggono guadagni e reddito dalla gestione museale, dalla gestione degli eventi artistici, e dovremmo imparare da questa esperienza di questi paesi. Francesi speculatori dell'arte, no, forse semplicemente più consapevoli di quanto la musica possa influenzare l'andamento finanziario di uno Stato al di là della spietata crisi economica. Il professor Mazzoli, che da anni frequenta i più importanti atenei europei, mette in connessione la musica con i flussi turistici. Il comune, le autorità, le amministrazioni locali dovrebbero cominciare cominciare a gestire in modo serio e manageriale, senza delegare ai privati, perché delegare ai privati vuol dire regalare ai privati un reddito che invece può essere del comune, della collettività. Senza delegare ai privati la gestione, ad esempio, si può collegare una intensa attività creativa, artistica e musicale con i flussi turistici. Una città dove gli amministratori locali sanno vendere bene il prodotto turistico, il prodotto artistico e musicale, attira flussi di visitatori che si fermano a vedere i concerti, magari vanno in albergo, magari consumano nei ristoranti, ed è uno dei vari, dei numerosi fattori che contribuiscono allo sviluppo. Un tema che conosce molto bene Antonio Principgalli, presidente di Puglia Sounds, programma della Regione Puglia nato nel febbraio del 2010 per la crescita del sistema musicale finanziato dal Fondo Europeo Sviluppo Regionale. Primo esempio in Italia, ci conferma il dottor Principgalli. La terza regione ha comunque scelto di usare fondi comunitari per lo sviluppo regionale, ribadisco decidendo di usare i fondi che la comunità come concede alle regioni ad obiettivo 1, che fino ad ora sono stati fondamentalmente come li appunto usati dalle opere pubbliche, tipo per i porti, per le autostrade, per le centrali elettriche, eccetera, eccetera, scegliendo la cultura come uno degli elementi di sviluppo del territorio. Come chiaramente la sola esperienza pubblica che c'è in questo paese, anche se nel resto d'Europa ci sono tantissimi storici, diciamo così, da quello catalano a quello come più ampio della Francia. In cifre si tratta di circa 60 milioni distribuiti su un quadriennio, utilizzati per sostenere le attività di 350 piccole e medie imprese musicali operanti sul territorio. Principgalli, come si svolge l'attività di Puglia Sounds? Puglia Sounds ha individuato i pilastri che compongono la filiera del sistema musicale produttivo e ha lanciato una serie di attività, una serie di bandi pubblici, una serie di azioni a sostegno di ciascuno di questi pilastri, come per esempio l'aspetto della musica dal vivo o anziché invece per l'internazionalizzazione delle imprese, oppure a sostegno degli studi di registrazione, per cui come gli attua le proprie politiche su tre linee fondamentali, live, record ed export. Nel corso del 2011 Puglia Sounds ha coinvolto 59 comuni pugliesi, ha prodotto oltre un centinaio di artisti e finanziato 500 eventi che hanno contribuito notevolmente allo sviluppo del marketing territoriale. Ne faccio semplicemente un esempio. In Puglia negli ultimi tre anni c'è stato uno sviluppo del 10% in media del turismo. L'anno scorso la Puglia è stata in agosto la regione più visitata in Italia. Noi nella nostra parte abbiamo contribuito, ad esempio, mettendo in rete 50 festival, i più importanti festival che si svolgono in questa regione, mettendoli a sistema e provando ad attuare quelle politiche di come promozione e di come comunicazione per far sì che la Puglia avesse un'immagine complessiva rispetto alle attività culturali. In quest'ottica bisognerebbe dunque pensare a misure tese a rinvigorire e alleggerire nella struttura i sistemi culturali presenti, o meglio a studiarne di nuovi, lontano dai format televisivi di importazione. Quando si parla di disoccupazione giovanile, come suggerisce il professor Mazzoli, bisognerebbe riflettere sulle migliaia di ragazzi che oggi in Italia impegnano i propri talenti nella musica, che erroneamente nel bel paese troppo a lungo è stata considerata come l'arte in genere, espressione di un passatempo artistico, e che invece Principgalli definisce materialmente un lavoro come un altro e quindi degno di pari dignità e meritevole di investimenti. La musica è un lavoro come un altro. Non c'è alcuna differenza da fare mobili a fare libri. È sempre un comparto produttivo che tra l'altro la comunità europea attesta essere non quello musicale ma quello sull'industria della cultura in generale, pari al 2,6% del PIL dell'intera comunità. Il reportage di Martina Zenton sulla musica indipendente in Italia. Avete ascoltato Italia in controluce. Torniamo alle 6.30 su Radio 24, dove faremo il punto sulle elezioni amministrative.